Lovelace, tra poco. Prima puntata, cioè in realtà non è la prima puntata, è la seconda, ma questa è la prima volta che abbiamo un nome Esatto, ufficiale. era un pilota. Eh sì, la prima era un po' un pilota, questa è la puntata quella vera, diciamo. No, non è vero, anche quell'altra era vera. Diciamo che insomma iniziamo a essere un po' più rodati, ma oggi è una puntata difficilissima, un po' perché è la Befana, veniamo dalle feste, c'è l'apocalisse fuori, il panico, Covid, tutte cose. Fatto sta che siamo dislocati in varie tane del Wombat, sparse in varie lande, e quindi è stato difficilissimo, è stato tutto un accrocchione di collegamenti un po' qua e un po' là, che non è detto che ci funzioni, no? Noi abbiamo, infatti siamo partiti un po' in ritardo perché non ci funzionava niente all'inizio, ma adesso, come da bravi e brave hacker, più o meno siamo I riusciti potenti mezzi del Wombat ci hanno permesso di di collegarci. accroccare A tutto insieme, sì, più croccare, o sì. meno. Però insomma proviamo. E io direi di passare subito la parola al primo intervento, perché questa puntata sarà un po' un pupurrì, sarà un po', come dicevi giustamente te, una calza della Befana con dentro varie cose. E non avrà quindi un argomento unico come l'altra volta, ma sarà un po' un insieme di cosette, di notiziole, di racconti che volevamo farvi. E il primo di questi ci arriva da una delle tane del Wombat, appunto sparse, e ha un'autonomia limitata, quindi ve la diamo per subito come primo intervento, così poi va a dormire, a riposarsi. Ci senti? Io vi sento bene, sì, voi mi sentite? Direi di sì, Sì. Bene, ottimamente. Io sono nel freddo nord, infatti ho il cappellino del Wombat, lo tengo anche in casa perché fa freddo e questo mi scalda la testa, mi fa bene. E io volevo raccontare delle cosine che mi ero preparato, però ho scarsissima possibilità di interazione con tutto il resto. Della Wombat regia, a quanto capisco, ma per la mia incapacità manifesta di relazionarmi con il web moderno. cioè per me è tutto difficile. E per la tua E attitudine quindi all'autismo anche, ovviamente. al solipsismo, Sì. ormai sono su un'altra, proprio un'altra cosa. Ah, ok. Sì, e quindi tendenzialmente pensavo di fare un intervento fiume da solo, cioè senza interagire con nessuno. Però poi in realtà ho anche poca autonomia di voce e quindi penso che il mio intervento fiume sarà un intervento ridotto di un paio di minuti e poi a un certo punto stramazzerò in maniera teatrale e poi capirete che il mio intervento è finito. Sì, io vorrei rassicurare i tuoi numerosi fan che comunque stai bene, non stai per morire, ecco. No, no, no, No, no, sto... il momento di pe ah, c'è pensato un momento, ma non mi è piaciuto. Stavo giusto appunto leggendo un libro di Bertrand Russell sui problemi della filosofia, poc'anzi, mentre Quindi parlavate. stai bene, Certo, sono in una fase riflessiva, ok. Beh. Dici, però in dici. realtà volevo parlare di cose pragmatiche, come faccio di solito nella mia realpolitik. No, in realtà è uscito da un po'. Esce di solito in questo periodo dell'anno, più o meno io me ne ricordo a Natale, in realtà esce prima, ma non è proprio una delle mie priorità nell'esistenza, quindi me ne ricordo mesi dopo. Il report del Clusit, che è questa associazione italiana per la sicurezza informatica, che dici cazzo se ne frega, effettivamente chi cazzo se ne frega, è un'associazione che ha sede all'Università di Informatica di Milano e ogni anno fa due report, uno a marzo, uno verso ottobre, in cui tenta di fotografare quello che è il panorama della cyber security osservata da loro nel mondo e più nello specifico in Italia. È una roba che si basa un po' sui dati raccolti da vari campioni, mi sa che ne abbiamo già, almeno io ne ho parlato quando c'avevo la trasmissione Coccoli al Silicio, sicuramente di questa cosa, però tendenzialmente dice ogni anno più o meno le stesse cose e quindi anche quest'anno a confermare che dice ogni anno le stesse cose volevo Le ridire sempre le stesse stesse cose. cose. Esatto. Beh, molto bene. E allora, nel report, quello del 2021, innanzitutto ci sono però delle grosse novità nell'impianto, perché di solito quello di ottobre riprendeva solo le cose di marzo e le aggiornava, ma quest'anno ci sono talmente nu tanti nuovi attacchi che hanno deciso che quello di ottobre sarà un report tutto nuovo. E come ogni anno loro millantano che questa cosa degli attacchi informatici è probabilmente pure vera, però non si capisce bene come fanno a dire queste cifre e causa tantissime perdite economiche. E tanto che proprio citano anche quanti sono questi soldi, però sembra una cifra buttata abbastanza a caso. Si parla di questi trilioni di dollari che partono a causa degli attacchi informatici. Loro, ci cito proprio dal report, dicono la crescita drammatica delle perdite derivanti da questa situazione di far west digitale, stimate in 1 trilione di dollari per il 2020 e 6 trilioni per il 2021, dovrebbe far riflettere molto seriamente. Ecco. Accidenti. Sì, e poi sotto infatti specificano che dice auspichiamo che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che complessivamente alloca circa 45 miliardi di euro per la transizione digitale, possa rappresentare per l'Italia l'occasione di mettersi al passo e colmare le proprie lacune, colpo di tosse, anche in ambito cyber, e non abbia come Ah. esito un ampliamento della superficie di attacco esposta nel paese, ma una sua complessiva significativa riduzione, che sarebbe come dire dateci anche a noi qualche soldino Infatti, di cioè, questa era roba tutta una qua. scusa per avere soldi, ok. No, non li hanno direttamente loro, però effettivamente il piglio è quello molto della sicurezza commerciale, quindi alla fine cioè si dice è sempre peggio, la situazione è tremenda, fa tutto e moriremo tutti, e poi si danno delle cifre atte di solito a questa. Poi sono anche cifre non campate in aria, cioè di fatto aumentano questi attacchi informatici. Uno può anche però dire, ma a me che cazzo me ne frega, e alla fine, cioè ci esempio. sono anche altri problemi. Nella vita, però, una delle cose interessanti che volevo far vedere di quest'anno del reportino era che sono cambiate abbastanza cioè in linea con quelli degli anni scorsi. Loro fanno una classificazione della distribuzione degli attacchi per tipologia e fanno vedere più o meno le tipologie dal 2018 al 2021, quindi considerano questi qua. È interessante il fatto che le tipologie sono cybercrime, spionaggio, attivismo, information warfare e poi uno che non si capisce bene perché la sommano, però è la somma dei due, cioè spionaggio più information warfare, che loro ci tengono a darla anche sommata. Però me l'hai già messa prima perché cazzo, intanto è proprio la somma, si vede. Stava Però vabbè. bene sulla slide dei PowerPoint, probabilmente. Sì. Sì, è vero, c'è una freccetta Molto che ne esteticamente delinea appagante. l'andamento. Certo. Comunque, il cybercrime è quello che sale sempre di più o meno, rispetto all'anno prima, cioè è più 21%, quindi il trend nel 2021 è in salita rispetto al 2020. Lo spionaggio invece è in discesa, cioè siamo a meno 36%. L'attivismo sono anni che andiamo in picchiata. Cioè, nel senso che proprio non è quasi scomparso. Questo ci dovrebbe Cioè, dire qualcosa, direi. l'information warfare invece, che è interessante perché non è lo spionaggio, ma sembra più una roba, cioè in realtà un po' si sposa, infatti secondo me per quello la mettono assieme, e ha più di 18%. Però loro poi lo sommano al fatto che è meno 36 lo spionaggio e quindi è sabotaggio, cioè insomma lo spionaggio e l'information warfare alla fine è meno 29. Però è una roba, un trucco. In realtà secondo me andavano bene, cioè metterlo in salita perché tendenzialmente mi sembra che comunque le attività che sono miste tra quello che loro identificano col cybercrime e quello che identificano con l'information warfare, in realtà spesso si mischiano. Cioè, se guardiamo gli grossi attori internazionali di questa roba, cioè spesso gli stati, quelli da cui arrivano gli attacchi, quelli grossi, sembrano un misto delle due cose. Cioè, sembra un po' ti voglio rubare soldi, un po' ti voglio rubare le informazioni, tendenzialmente quello che raccatto, raccatto, qualcosa me ne farò. Quindi probabilmente non lo so, la roba è un po' più così. E questo niente, era sto report del Cruzit. Se ve lo volete guardare, in realtà c'è il sito dove voi lasciate la mail e loro ve lo inviano. È un PDF e basta. Poi in realtà ci sono tanti grafici, tante cose, però ora mi sa che ho parlato già abbastanza e quindi basta. E una cosa interessante del reportino, in realtà è stato ripreso anche da. Penso anche dal Sole 24 Ore, che ha una pagina che ho scoperto da poco dedicata solo alle cagate di cyber security, Bene. fatta da dei tipi che hanno un prodotto commerciale di cyber security e curano anche la pagina, quindi un po' si fanno pure pubblicità. E praticamente era una cosa interessante rispetto agli attacchi vari, eccetera, così è che l'ultimo mese è stato caratterizzato da un attacco di cui vi volevo parlare come esemplificazione di questo report del Clusit, cioè di cui parlano, che è quello di Log4Shell, che è una roba che ha avuto una curva di crescita abbastanza, cioè un caso molto paradigmatico di come vanno alcune volte queste cose, no? Perché Log4Shell è stata una roba che è arrivata, come accade qualche volta, anche ai giornali. Nel senso che i giornali saltuariamente, sempre meno saltuariamente, in realtà negli ultimi anni parlano parecchio di attacchi informatici, e quando ci sono dei nomi particolarmente che ricorrono te li ritrovi, il che è straniante per la persona che legge il giornale tutti i giorni e quotidiani, perché tu non è che sei un esperto di queste cose, no? Quindi il fatto che ti buttino lì dei nomi non è che ti aiuta, però ce ne sono alcuni che evidentemente suonano meglio e in qualche modo in qualche modo hanno un appeal che merita di essere portato all'attenzione di tutti. Questo Log4j è una vulnerabilità che è uscita verso dicembre, così, che riguarda una componente di Apache che serve essenzialmente a scrivere log, cioè è solo una libreria che ti aiuta a loggare in maniera ordinata quello che succede in un applicativo. E quindi la usavano tanto perché era una libreria fatta da Apache, che è quella che fa i web server, è un progetto di software open source. Era molto utilizzata e l'hanno scoperta inizialmente. Ad esempio, le prime volte di cui si parlava di questa vulnerabilità era legata ai server di Minecraft, i giochino, perché Minecraft ha questo approccio per cui tu ti puoi installare il server a casa tua. e poi far collegare al tuo server Minecraft per la creazione di mondi, eccetera, altre persone. E per loggare le robe delle chat di Minecraft si usava proprio questa libreria. Quindi qualcuno ha iniziato a capire che se scriveva delle cose in un certo modo in quella chat lì, quelle cose poi si traducevano in quella che viene chiamata una remote command execution, cioè l'esecuzione di codice remoto sulla macchina. In questo caso era quella che utilizzava questa libreria. Questa roba è uscita all'inizio, ne sono uscite varie di queste vulnerabilità, sono usciti quelli che si chiamano i CVE, man mano si è specializzata, sono usciti i primi proof of concept, cioè degli esempi di come sfruttarla, e poi in qualche modo è iniziata a essere sfruttata. E chi la sta sfruttando? Adesso un casino di gente, in realtà. Io avevo preso alcune notizie, ad esempio si parla di attacchi cinesi a istituzioni americane accademiche principalmente, o comunque accademici in generale, istituzioni accademiche in giro per il mondo, che sono state anche ri ribattezzate, perché la cosa più figa di questi attacchi è che spesso chi li individua gli dà dei nomi che spesso non sono scelti da chi porta l'attacco, ma sono molto evocativi. Tipo questo l'hanno chiamato Aquatic Panda, questa campagna. Bellissimo. Infatti è Bello. bellissimo. E loro hanno rivolto la propria attenzione verso alcune istituzioni accademiche e hanno cercato di prenderne il controllo attraverso questo sfruttandolo a questo, diciamo, questa vulnerabilità di cui ho parlato finora, che è Log4j. E questo per dire che più o meno il trend della cosa è stato questo, cioè una vulnerabilità che sta in tanti posti. È relativamente semplice da sfruttare. In realtà questa vulnerabilità si basa su una cavolatina, se volete, cioè se volete capirla, cercate sull'internet, a parte le spiegazioni, ma quello che dovete capire è come funziona il Java Naming and Directory Interface, anche conosciuto come JNDI. Cioè se riuscite a capire come funziona questa roba, capite per quale motivo succedono cose sulla vostra macchina che voi non vorreste che Forse, succedessero. no, in Cioè, effetti. forse, ora non riesco più perché sono quasi alla fine del discorso, che è quando poi stramazzo al suolo. Ah, bene, bene. E quindi niente, dicevamo che questo attacco si sposava bene con la roba del report inclusive, perché in qualche modo rappresenta questa esplosione che loro rilevano tra il 2021 e tra il 2020 e il 2021, ma anche tra il primo semestre del 2021 e l'ultimo semestre del 2021. Loro appunto mettono in luce questa grossa esplosione di attacchi informatici. Il Sole 24, ad esempio, ne parla proprio in termini quasi di pandemia, cioè diceva, mentre c'è la pandemia del Covid, c'è anche la pandemia di attacchi informatici e via così. Certo, perché comunque c'è i virus, si sa. È Sì, ormai sì, tendenzialmente un'analogia molto facile. ripetere i termini penso che aiuti a fare brand. Sì, certo. Cioè, se ripeti un termine che già tutti utilizzano riferito a un'altra cosa, comunque questo provocherà dei cortocircuiti mentali. Poi non lo so, perché chiuso in casa mi stavo vedendo tutta la serie di accorsi 1992, cioè su Tangentopoli e il berlusconismo. E quindi ora ho visto le prime 10 puntate e sono ferratissimo su come il marketing ci ha fottuto il cervello nei primi anni 90. Ah, bene, bene. Questo magari ce ne parli nella prossima puntata. Esatto, sì, io stopperei Dove ci qua. fai le recensioni di tutte le serie televisive che hai guardato. Ci interessa molto. Bene, bene. Va bene, basta, vi saluto No, per questa bellissimo, sera. anch'io, anch'io. Sì, una voce dall'oltretomba vuole commentare anche lui, ma tanto purtroppo Ginox non ti sente, quindi non si può fare. Va bene, allora ti salutiamo, direi, e niente, non stramazzare al suolo e ci sentiamo la prossima volta. Ciao. Ciao. Certo, grazie. Ciao. Ciao Gino. E noi invece ritorniamo in, come si dice, in studio? Non lo volevo dire, scusa, non c'è nessuno studio, ma io lo volevo dire. E, però direi, siccome abbiamo forse un po' stordito il nostro pubblico con tutto ciò, magari mettiamo un pezzo Un bel musicale. pezzo, sì. Ora io certo se me lo fossi preparato, no, ma me lo Sì, sono preparato, me l'hai dato te il certo. pezzo, Nel infatti. frattempo tergiversiamo, è sempre colpa del marketing. Sì, come ci ha insegnato, ma corsi, perché ha corsi? Ha fatto una serie a corsi? Boh, Mi manca. Ginox sa cose che noi non sappiamo sempre questo. Bene, bene, abbiamo il pezzo musicale e A Tribe Called Quest, Electric Relaxation. E poi dopo torniamo a parlare del resto delle notiziole che volevamo darvi. Black hair and your fat thighs. Street poetry is my everyday. But yo, I gotta stop when you drop my weight. If I was working at the club, you would not pay. Ayo, my man Fife Diggy, he got something to say. I like them brown, yellow, Puerto Rican, and Haitian. Name is Fife Dog from the Zulu Nation. Told you in the jam that we could get down. Now let's knock the boots like the group H-Town. You got DVD all on your bedroom wall. But I'm above the rim and this is how I ball. A gritty little something on the New York street. This is how I represent over this here beat. Talking about you. Yo, I took you out. But sex was on my mind for the whole damn route. My mind was in a frenzy in a horny state. But I couldn't drop dimes cause you couldn't relate. Relax yourself, girl, be set. You couldn't relate. Relax yourself, girl, be set. You couldn't relate. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Stretch out your legs, let me make you ball. Drive you insane, drive you up a wall. Staring at your dome piece, very strong. Stronger than pride, stronger than Teflon. Take it on the Ave and you buy me links. Now I want a pound of until it stinks. You could be my mama and I'll be your boy. I read you're not a road boy, never am I coy. You could be a shorty in my ill convoy. Not to come across as a thug or a hood. What? But hun, you got the goods like Madeline Wood. By the way, my name's Malik, the 5 foot freak. They say we get together by the end of the week. She simply said no, label me a. I said, how you figure? My friends tell me so. I hate when silly groupies wanna run they yap. Word to God, hun, I don't get down like that. I'll have you weak in the knees that you can hardly speak. Or we could do like Uncle Ella, swing it up in my Jeep. Keep it on the down, yo, we keep it discreet. See, I'm not the type of kid to have my biz in the streets. If my mom don't approve, then I'll just elope. Let me save the little man from inside the boat. Let me hit it from the back, girl, I won't catch a hernia. Off on your couch, now you got Siemens furniture. Shy he fight for the extra P. Stacy Beetle, PJ, and my man LG. They know the ass jack is really so on ice. The character is of man, never ever a mice. Shorty, let me tell you about my only vice. It has to do with lots of loving, and it ain't nothing nice. Relax yourself, girl, be set. It ain't nothing nice. Relax yourself, girl, be set. It ain't nothing nice. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Eccoci, mi sono accorta che non ho dato i contatti, non abbiamo detto i nostri social wombat, in particolare il sito ovviamente radiowombat.net e poi la casella di posta wombat @insiberia.net, ma anche il pad al quale potete scriverci diretta wombat.vado.li. E questa volta potete scriverci davvero, perché siamo in diretta per davvero. E quindi se ci state ascoltando ora, e ve ne diamo prova perché è giovedì 6 gennaio alle 22.00 spaccate, questa sì, è la prova finale. Sì, proprio tipo Aldo Moro con il giornale. Ecco, insomma, se volete ci potete scrivere sul pad e noi vi leggeremo il tempo che lo apro, perché ovviamente sì, me l'ero dimenticata. Vabbè. Beh, non è una prova comunque, eh. Avremmo potuto essere molto precisi, registrarlo sapendo perfettamente quando lo mandiamo e fregarvi. È vero, avremmo potuto. Perché come nella prima puntata stiamo trasmettendo dal futuro noi, abbiamo già registrato. È vero, sì. Io trasmetto dalla mia Steam caverna. Sì, infatti ti sentiamo un po' ovattato, ma comunque ti sentiamo. Bene, ciao Steam Boy, benvenuto tra noi. E quindi a questo punto io direi di proseguire nella nostra scaletta, sì, sì, che, sì, che esplorava altri universi. No, l'universo è quello. Esplorava altri mondi. Per ora sì. Giusto? Io di questa roba non so niente, quindi dovete andare voi, perché io proprio non so di cosa state parlando. Ma sì, nella... Ma nemmeno noi. In verità è vero. Evviva. No, ma è roba talmente complessa, anche soltanto fermasse ogni singolo componente è una cosa allucinante. E si parla del telescopio, il James Webb. L'avrete visto. Il lancio il 25 dicembre... È partito. C'è chi festeggiava il Natale e invece c'è chi stava a guardare il lancio del James Webb. Esatto. E vabbè. Un bellissimo lancio, devo dire. Fortunatamente è andato benissimo. E si sta spostando, sì, in questo momento, sì. Devo dire, anch'io sono molto contento, è andato bene, è una figata, è bellissimo. Però come regalo di Natale, se esplodeva, era comunque bello, eh. Cioè, no, era molto bello. Una bella esplosione, sì, ci sta sempre bene. Ma perché poi era in tema anche, no, con la cometa, queste cose qua. Sarebbe apparsa questa cometa che faceva i bagliori. Sarebbe stata bella. No, qui c'è la battuta trescissima. Qual era? Quello Space Shuttle che è rientrato, che rientrò malamente. Non mi ricordo, che è atterrato in autostrada, non mi ricordo. No, il Colombo, non mi ricordo, quello che si distrusse sull'atmosfera. Ok. Ha fatto effettivamente la stella cometa. Ah, ecco, ecco. Beh, sì. Ecco. Va bene, ma invece dicevamo, questa è andata bene e quindi, però, allora... Ora, io vi faccio l'avvocato del diavolo. Cioè, questa è una notizia che è comunque comparsa un po' su tutti i media mainstream. Noi vogliamo parlare a Lovelace perché comunque non ci interessa dare, come dire, la notizia in sé per sé, che appunto l'avrete vista, ma magari entrare un po' più nei dettagli e commentare qualcosa di più laterale, giusto? Ma sì, sì, sì, la parte tecnologica del James Webb è veramente allucinante. Ci sono tantissimi dettagli veramente carini, dal che si sta spostando ora, a parte i concetti un po' più al di fuori della categoria, della mia categoria almeno da informatico, per quello che ho capito si sta spostando sul punto di Lagrange, L2, dove orbiterebbe praticamente con la Terra, sarebbe esposto comunque al Sole così da alimentarsi attraverso i pannelli solari, e la parte esposta al sole, quindi per l'alimentazione, e sarebbe composta da delle membrane, da uno scudo solare per permettere l'altra parte a rimanere a meno 230 gradi, proprio per permettere al telescopio, che funziona prevalentemente a infrarossi, di avere la visione più chiara possibile e più precisa, il che è veramente una gran figata. Anche... Sì, no, poi il cioè anche proprio lo scudo termico, cioè come è fatto, bellissimo anche come è stato tutto ripiegato, piccolino per essere lanciato, tipo, cioè si può non apprezzare il tema, diciamo, spazio, però secondo me questa roba qui è a livello proprio ingegneristico, sono dei capolavori. Questo sì, infatti guarda, stavo guardando un'intervista ed è uno dei project engineer manager proprio che sulla parte di attrezzatura, no? Della James Webb. Ora, è un ruolo un po' detto così, un po' generalistico, ma comunque uno dei capoccia. E parlava per l'appunto della difficoltà di creare questo spiegamento dello scudo solare di questa membrana sulla Terra per poi averlo nella realtà, nello spazio, senza nessun problema, in one shot. Il che è, ci sono delle complicanze veramente, veramente interessanti su questo. Questo è veramente bello. Anche diceva per Sì, infatti. l'appunto. Di scusa. No, dicevo, ma magari non so se. Cioè, se vogliamo tipo spiegare un attimo, magari forse quali sono le fasi. Poi magari vogliamo dire anche a che punto è, però più che altro quali sono tipo le fasi. Perché noi effettivamente io mi sono focato allo scudo, però non si è detto niente. Quali sono Di effettivamente, diciamo, le fasi principali di funzionamento e come si dovrebbe aprire, così magari si chiarisce. sì, in effetti sì, va un attimo chiarito, ci siamo subito infognati sul paracadute. E fondamentalmente, da quello che è stato il lancio, ora subito dopo siamo arrivati al dislocamento della base, ora non vorrei dire cavolate, ma principalmente del propulsore del telescopio, fino a che non è arrivato al punto in cui si è potuto effettivamente aprire e dispiegare protetto dal sole. Quindi sono state delle fasi comunque che ancora non è arrivato lì e ancora non è completamente dispiegato né calibrato. Sì, praticamente lui, vabbè, sì, è partito, eccetera, eccetera. Vabbè, allora, aspetta. Innanzitutto volevo dire una roba, che il progetto è della NASA, dell'ESA e del CSA. Il CSA no, non è l'Emerson, purtroppo, ci dispiace, ma è l'Agenzia Spaziale Canadese, anche se sarebbe stato molto bello che l'Emerson avesse partecipato, secondo me. In un futuro magari anche noi avremo la nostra missione spaziale, perché cioè alla fine devo dire, noi siamo infognati, abbiamo il dirigibile e tutto, però ancora siamo nell'atmosfera, cioè qui siamo nel 2021, se non iniziare ad andare fuori dall'atmosfera. Deporacci, sì. Quindi dirigibile a reazione, questo è il futuro. Comunque, e quindi le tre agenzie spaziali hanno lanciato Hubble. Hubble è partito, sì, buon Hubble, James Webb. scusate, è James Webb. Questo è con i missili francesi, che ora non mi ricordo mai come. Ariane 5, se non sbaglio si dice Ariane. È partito esattamente il 25 da, se non sbaglio, la Francia Guinea. Non saprei posizionarla meglio. E da lì è partito. Dopo, in realtà leggevo, sono quasi 25 anni che si sta studiando per l'appunto, si sta preparando per questo lancio. E una volta partito il razzo, con la collaborazione di queste tre agenzie, si è spiegato, aperto, tutto è andato per il meglio e ora sta viaggiando lentamente, appositamente in maniera molto lenta, con una bassa velocità, per arrivare a questo punto di Lagrange L2. La parte interessante è che l'hanno lanciato con una velocità minore, proprio per poi non consumare più carburante una volta arrivati a quel punto lì. Perché la parte principale, il limite di tempo che ha questo progetto, quindi la vita che è 10 anni, è data per l'appunto dal carburante che ha con sé il James Webb. Tutto questo per fare delle piccole calibrazioni, innanzitutto correggere la rotta in tre fasi durante il viaggio e poi una volta arrivato nella sua casetta per rimanere in orbita, in quell'orbita esatta, sfruttando sia del carburante che poi un alettone chiamato veramente in maniera punk per sfruttare il push del sole. Per rimanere sempre, diciamo, in balance con quello che deve osservare. Sì, cioè si sfrutta proprio, c'è cioè una specie di vela solare più che alettone, proprio una piccola parabola che usa usa il vento solare, che quindi usa, diciamo, delle radiazioni in maniera molto ampia, okay, per bilanciarsi, o comunque sì, per rimanere nell'orbita. E poi vabbè, usa in parte, cioè è comunque, sente ancora l'influenza della gravità della Terra, ha il, cioè orbita in una maniera un po' particolare, e questa roba, diciamo, appunto la Lagrange è un punto ben studiato e serve proprio, è uno dei punti migliori dove un oggetto può rimanere in orbita abbastanza stabile, perché comunque appunto va un po' corretta, però è molto stabile, diciamo, e per tanto tempo senza stare a correggere troppo e quindi senza consumare troppo carburante. Chiaro. Per l'appunto, proprio perché oltre ad avere l'alimentazione, quindi un array di pannelli solari, e consuma fino a 2 kW, quindi non può accendere il microonde, il phon e la lavatrice tutti insieme, altrimenti si spegne. No, infatti. E, oltre a questo, una parte anche veramente carina è il sistema di raffreddamento della parte del telescopio, ed è veramente complesso e allucinante quella parte lì, proprio per l'appunto perché l'emissione, la dissipazione del calore dei componenti del telescopio vengono rimandati allo scudo solare per dissipare il calore al di fuori dell'unità del telescopio. La parte di raffreddamento viene gestita attraverso delle onde sonore, e in questo radiatore c'è per l'appunto una sostanza porosa dove viene mandata un'onda sonora, in qualche modo viene effettuato questo raffreddamento. È molto complesso e stra-interessante, sinceramente. Ora, questo è, diciamo, quello che ne ho tratto io da anche questa piccola parte qui. Sì, ho visto un po' di tempo fa, tra l'altro, un tipo che lo faceva con un tubo di vetro, che è molto ganzo. Cioè, è, per quanto sia difficile, è un esperimento, diciamo, replicabile, che attraverso il suono, che comunque è compressione e decompressione di un'onda di aria, comunque bene o male è esattamente quello che poi fa un frigorifero, quindi sì, è ganzo, molto ganzo, e è anche estremamente, secondo me, veramente incredibile tutto quel parasole enorme che dicevamo, che serve praticamente il James Webb ha come se fosse il culo, possiamo dire, girato verso la Terra, girata quindi verso il Sole, che dove sotto al pannello solare, poi subito più su c'è questo enorme pannello di separazione, uno scudo termico che è fatto di 5 veli separati. C'è sempre scritto separati dal vuoto, il che è molto interessante, ma siamo nello spazio, quindi è normale che siano separati dal vuoto, e quindi sono, cioè, questi 5 strati che sono tutti ripiegati quando era dentro la navicella per il lancio, e poi si aprono in un meccanismo estremamente complicato e assurdo, e si tirano uno dopo l'altro, tutti separati uno dall'altro, e fanno un botto di isolamento termico. Dalla parte esposta al sole, che è parecchio calda, alla parte non esposta al sole, dove c'è i macchinari e tutta la parte elettronica, che appunto deve stare a quasi meno, non mi ricordo se meno 230, a meno 200? Meno 230, come? Mi ricordo, meno 230, sì, mi ricordo. Esatto, cioè comunque deve stare praticamente quasi allo zero assoluto, cioè siamo lì. E quindi, no, è incredibile. Ed è interessante anche proprio quei 5 strati, dove sono comunque degli strati di per sé trasparenti, poi c'è un coating di alluminio, se non sbaglio, e i primi 2 in realtà hanno il coating di alluminio e anche di silicone, proprio per combattere il calore e rimandarlo verso lo spazio. Anche quella parte lì è veramente interessante, cioè ogni piccolo dettaglio è studiato al massimo, proprio perché l'errore, un errore qualsiasi, precluderebbe subito la missione. Un po' come Hubble, è stata fatta una manutenzione, ma arrivare fino al punto di Lagrange, per ora l'L2, per ora si mormora che stiano pensando a farlo, ma comunque sono rumors, diciamo, niente di concreto. No, vabbè, sì, cioè considerate che, fai conto, a Bologna non mi ricordo precisamente a quanto era di distante dalla Terra, ma comunque era poco, qualche centinaio di chilometri, mi sa, 700 chilometri, mi sembra, una roba del genere. Questo è 1.500.000, mi pare, mi sbaglio? Sì, giusto, giusto, lontanissimo. Quindi, insomma, 1.500.000 di chilometri è tosta, ecco, cioè andare a fare manutenzione a una roba 1.500.000 di chilometri dalla Terra, non so, mi sembra abbastanza complicato, ecco, sì, e quindi deve funzionare tutto alla prima, non come Hubble, che tra l'altro aveva problemi alle lenti, era stato riparato, e sì, invece lui no, cioè non, se si rompe, buona, è andata. E male che va, cioè, tanto è praticamente lo butti, tanto ormai è lì. Sono soltanto poi quei 18 specchi esagonali, che è la forma perfetta, con quelli lì anche, sono leggermente costosi, quel secchio, sì, lì di fotoni, diciamo. Sì, anche lo specchio, appunto, è pazzesco, perché Hubble aveva uno specchio abbastanza più piccolo, Hubble mi sembra era su 2 metri e qualcosa, lui è sui 6,5 metri, mi sembra. Ora io in realtà i numeri non ce l'ho sotto, per cui non è che mi ricordo, però a naso mi ricordo una roba del genere, intorno ai 6,5 metri, e siccome ovviamente non ci stavano tutti disposti aperti dentro il missile di lancio, c'è tutto un sistema che si devono aprire, si devono tutti perfettamente allineare, cioè è una roba incredibilmente folle quanto devono essere precisamente allineati uno all'altro, perché nell'altro specchio, lo specchio riflettente, si abbia un'immagine precisa, cioè di base funziona come non proprio come una parabola, perché è come una parabola doppia, non so se qualcuno ad esempio conosce un po' nel mondo della fotografia, si chiamano obiettivi catadriottici, che sono quelli che hanno uno specchio dove, diciamo, in corrispondenza vicino alla macchina fotografica tu vedi uno specchio, però quello specchio manda l'immagine riflessa a un secondo specchio che invece è in cima all'obiettivo, però quello specchio lì la rimanda verso la macchina fotografica, però stavolta dentro il sensore, e quindi si ha una doppia ingrandimento, diciamo, un doppio rinvio. Mm-hmm. Che sono per l'appunto, ora ho una GIF sotto, sto barando in realtà. Che è proprio è interessante, ora non me ne intendo di fotografia, comunque guardavo che proprio questo specchio più grande di 6,5 metri con i 18 esagoni, per poi andare a un altro specchio ancora, un secondo, che rimbalza su un terzo, che poi arriva allo specchio finale di regolazione, per l'appunto per il bilanciamento dell'immagine, che anche fare il deploy di tutto quanto questo da piegato dentro ripiegato dentro a un razzo fino ad arrivare a 1.500.000 km. Non è un giochino. Sì, e tutto ciò allineato, penso, non sarà al nanometro, però secondo me poco ci manca. Forse sarà anche al nanometro, anzi, visto che comunque è preciso e viaggia sugli infrarossi, penso, forse sì. Ma immagino probabilmente, questo non è, penso proprio di sì comunque. Per la precisione anche, visto che loro prevedono di... Scusate, è partita la musica. Prevedono anche di andare a vedere stelle, pianeti veramente, veramente, veramente indietro nel tempo, diciamo. Frase un po' sbagliata di per sé, comunque andare a studiare pianeti anche veramente lontani. Sì. Sì, mi è piaciuta la frase. Anche a me è piaciuta un sacco. Cioè, siamo arrivati un po' dopo, però era bella. Ok. Va bene. Sì, non so se vuoi dire qualcosa sui vari sistemi ottici o se vogliamo andare avanti, dimmi come vuoi. Allora, in realtà sui sistemi ottici non, ho provato, l'ho letti e ho provato un po', un attimo a studiarli, ma sono troppo over my head, cioè non ho tutte quelle conoscenze, non riesco ancora. Però è veramente interessante anche quella parte lì, che vanno dal limite della visione, del campo, delle onde che rientrano nel campo visivo umano fino a quelle più infrarosse. E c'hanno proprio tutta questa parte di telecamere. La NIRCam, che è Near Infrared Camera, e poi la NIRSpec, che è lo spettrografo, e qui mi fermo perché direi una cavolata. Quindi, però è anche tutta quella Sì, parte lì è cioè molto interessante. c'ha uno spettrografo che di base vede, cioè in base all'infrarosso che ritorna, gli associa una materia, diciamo, no? Ah, Un po' come ok. funziona lo spettrogramma normale, cioè se ti ritorna quel colore lì corrisponde a ossigeno. Quell'altro colore corrisponde a un altro elemento e in questa maniera riesci a capire di che cosa è composto effettivamente quel pianeta a milioni di anni luce. Chiaro, chiaro. E poi anche da quello immagino riesce a, oltre ad avere l'immagine, riesce anche a fare la colorazione poi in post-produzione, chiamiamola, rendendosi conto anche Sì, di quello. quando noi vediamo le immagini sono tutte shiftate, cioè praticamente Sì. prendono quella roba lì e shiftano la lunghezza d'onda per renderle sul visibile. Chiaro, chiaro, questo è bello. Ci hanno mentito Poi tutto questo tempo. c'ha Come sempre. un'altra roba interessante secondo me, che è una specie di, non saprei come definirlo, una specie di lettore, qualcosa che riesce, diciamo, a concentrare la vista del James Webb solo in un punto specifico rispetto a tutto quello che vede. Cioè riesce come a chiudere delle parti, a oscurare delle parti in modo da tenere attive solo delle altre parti per concentrare la visione dell'infrarosso solo in quella specifica parte di universo, diciamo, in questo caso. Sì, chiaro, chiaro, perché leggevo che per l'appunto riesce, non, la parte sensoristica non ha un FOV, un'apertura al 100%, riesce a vedere un 40% dell'universo in quel momento lì. O intendi la parte ancora più di selezione, più di precisione con gli specchi e la rotazione? No, da quello che ho capito dovrebbe addirittura, cioè, poter, diciamo, selezionare fino a forse 100 punti di immagine e vederli contemporaneamente, offuscandone altri, cioè chiudere proprio delle parti di sensore, diciamo, e per vedere meglio delle altre e così via. E questo farlo fino a 100 punti alla volta. Bello, bello, bello, bello. Però no, non sono sicurissimo, non ho ben capito più che altro come dovrebbe fare questa cosa. Comunque, più che altro, ora, se no effettivamente poi mangiamo tutto il tempo. Non so se vogliamo dire a che punto è, come sta andando, perché purtroppo appunto non è che è lanciato e vai, funziona. Nel senso, e questo telescopio è appunto, come dicevi prima, è lento per arrivare al punto L2, però a parte arrivare al punto L2 deve fare tutte le sue manovrine, tutte le sue robe e quindi sarà operativo tra un bel po'. Ora io non mi ricordo precisamente quanto, te lo ricordi? Ah, in realtà, guardando anche la pagina, non ho ben capito quando arriverà. Cioè, proprio sul sito della NASA, cercando James Webb, NASA, si trova il primo risultato, comunque è il viaggio che sta facendo il nostro mitico telescopio. Non ho ben capito quando arriverà. Leggevo prima sui vari step che mettono sul loro sito dell'apertura, sarà dal lancio più 29 giorni, ma non ho ben capito. E al momento, Ah, adesso, ok. ha fatto il deploy No, del radiatore. Ok, no, ho trovato, dice, dopo 6 mesi inizia la missione scientifica. Il quarto mese in realtà va già in calibrazione di tutti gli strumenti e quindi già il quinto Chiaro. mese dovrebbe essere pseudo operativo. Beh, Però dal non è sesto tantissimo, mese, credo. sì, tanto, un botto. No, no, dicevo il contrario, cioè probabilmente non è tantissimo rispetto a, cioè, all'interno di questo tipo di esplorazioni, no? Vabbè, non così tanto, appunto, se uno pensa che deve stare arrivando, sta andando a 1,5 milioni di chilometri da noi, ecco. Certo. Che poi vedevo che in realtà una volta arrivato lì impiegherà anche parecchio tempo a raffreddarsi per evitare il danneggiamento poi della parte di sensoristica, la NIRCam e tutta quella parte lì. Sì, esatto. In questo momento è a 100.581, no, di più, è già 1 milione? 1 milione e quanti zeri c'è? Qua c'è un botto di zeri. 1.582.000? Zeri. No, no, No. no, c'è troppi zeri. No, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Mi sto padellando con gli zeri. Comunque dovrebbe essere intorno già a 1 milione di chilometri. E infatti la danno come distanza, la danno a più del 69% di distanza completata, quindi effettivamente a quanto pare viaggia, comunque viaggia, la sua velocità se la fa, è 0,44 km al secondo, quindi insomma, ora non ce l'ho di fare la conversione in chilometri orari, ma se mi sa che fare per 3600, quindi insomma, a naso, sì, potete farlo a mente, voglio dire, no? Certo. La regia non era pronta con la calcolatrice, devo essere sincero. Purtroppo no, purtroppo non c'eravamo. No. Però per controbilanciare così tutto questo entusiasmo tecnologico verso e nerd verso questo telescopio, introduco anche un elemento di criticità non da poco, perché la NASA ha deciso di intitolare questo aggeggio di cui abbiamo parlato benissimo finora, insomma, che è un prodigio della tecnica contemporanea, e l'ha intitolato però a James Webb, che è un personaggio in realtà controverso, se vogliamo definirlo così, o si potrebbe definire anche abbastanza orrendo, perché comunque è un personaggio che diresse il secondo presidente della NASA in particolare, ed è stato direttore dell'Agenzia Spaziale dal 61 al 68, e durante la missione Apollo, insomma, chiaramente un personaggio abbastanza centrale, quantomeno nell'immaginario e simbolico. E però fu anche sottosegretario durante la presidenza di Harry Truman. E, insomma, ricordiamola come una delle migliori perle degli Stati Uniti, e pare che fu responsabile di una specifica campagna di persecuzione contro le persone LGBT, queer LGBT, fondamentalmente che andava in parallelo col maccartismo di quel tempo, insomma, vi ricorderete tutta la questione della persecuzione contro i comunisti e le comuniste, e quindi in realtà insomma, fu un personaggio abbastanza orrendo, e quindi c'è stata una petizione da parte Ma di mi sa che è possibile anche se avesse qualche tipo denuncia per molestie o robe. Comunque sì, era Sarebbe la proprio ciliegina sulla torta. Questo non lo so. No. abbastanza squallidino. Sì, ora questo dettaglio non lo sapevo, però sì, quello che leggevo è appunto fondamentalmente gli è stata rimproverata una sistematica campagna proprio di intimidazione e di persecuzione appunto contro le persone LGBT, e tant'è appunto che c'è stata questa petizione firmata da diverse persone, a cui la NASA sostanzialmente, appunto per fargli cambiare nome a sto telescopio, a cui la NASA sostanzialmente ha risposto: vabbè, non ci sono elementi di prova su questa cosa, quindi non ce ne frega niente e andiamo a dritto. Ora, come spesso succede purtroppo in queste situazioni, si tende un po' a minimizzare la polemica, cioè a dire: vabbè, ma in fondo chi se ne frega, non è così importante. Però c'è da dire che effettivamente se un oggetto del genere gli si dà un nome, è chiaramente per per un motivo simbolico, no? Cioè non è che davvero serve che si chiami James Webb questo telescopio, se gli si dà questo nome è per un simbolo, e se si sceglie un simbolo va scelto bene, chiaramente se si sceglie un simbolo una persona di questo tipo si sta dando evidentemente un messaggio abbastanza chiaro, quindi in realtà la polemica mi sembra più che centrata, e però insomma appunto purtroppo ad oggi non c'è stato, la risposta è stata abbastanza picche, ecco, un bel muro di gomma. E niente, questo giusto per buttare un po' di pessimismo e fastidio su, beh, su. In compenso però c'è la sonda Parker che invece c'è il personaggio Eugene Parker che invece insomma lui è abbastanza un grande. Ora a livello personale non c'è niente su di lui, il che potrebbe essere di solito buono perché vuol dire sì, che insomma non c'è niente di male. E di base lui sia la sonda che lui è un personaggio buffo, lui è il personaggio che negli anni 50 ha scoperto il vento solare, che fino allora era proprio una roba boh, e ha questo primato perché c'è una sonda Parker che è passata, ha toccato il sole, si dice ha toccato il sole, è passata a 13,1 milioni di chilometri dal sole, però è già nella corona solare, dove c'è tanto tanto tanto caldo, e la cosa figa è che è la prima sonda che è intitolata a un uomo ancora vivente, che potrebbe essere molto figo, potrebbe essere anche molto, non lo so, augurio di sfiga, perché comunque però di base questa cosa è figa, e in più è passato che appunto questa sonda è passata dentro la corona solare, ha un botto di caldo e non si è distrutta, cioè continuerà a girare, nel 2022 passa 9 milioni di chilometri, nel 2025 6,9 milioni di chilometri e va ovviamente... Dice come fa a passare e non bruciarsi, come qualsiasi cosa quando è calda la tocchi veloce, quindi di base il punto è passa molto veloce. Okay. Stava andando a 586.000 km orari, quindi a 163 km al secondo, quindi veloce, molto veloce. Tra l'altro ha preso un altro record, che è la cosa più veloce creata dagli umani a giro, cioè uno dice... la cosa più veloce, non lo so, un aeroplano, supersonico, no, è una sonda, giustamente, che sta andando a dritto. E secondo me anche la parte interessante è che questa sonda sta andando a studiare tutti il vento solare e i moti convettivi del magma solare, eccetera. Che in realtà sono una figata incredibile, perché sono quello che poi arriva alle fasce di Van Allen, crea le nostre aurore boreali, dà un sacco di disturbi a livello elettromagnetico. Sì, cioè, quindi è una cosa abbastanza importante, non è una cosa da poco. E comunque è una missione che è abbastanza sottovalutata, nel senso non è che più di tanto si sia mai sentito parlare, ecco. Però secondo me è molto ganza come cosa. Ovviamente non è come quando ci saranno le immagini del James Webb, se le immagini funzionerà tutto, perché ancora c'è da vedere, perché quello sarà proprio ciao. Però insomma comunque è una cosa molto importante, ecco. Chissà che non ci aiuti anche a ripristinare le onde mediocri anche con tutta questa scienza, e che il ruggito del Wombat non riesca di nuovo, grazie a questa sonda, a ruggire in onde medie sulla 1359 quando ce la si fa. Io direi che magari mettiamo un altro pezzo musicale per evitare di ammorbarvi troppo, e poi torniamo subito dopo. Non so se vogliamo aggiungere qualcos'altro poi dopo sul telescopio, oppure se vogliamo andare avanti. Boh, io direi l'abbiamo esplorato abbastanza, ora tocca al resto. Sì, sì, voglia, basta, cosa vogliamo altro dire? Niente, dai. Dai. Bene, allora ascoltiamoci un po' di musica nel frattempo. Money, money, We'll be right back. E a proposito di Money, allora praticamente abbiamo appunto questa calza della Befana, come vi dicevamo, piena di cosette, tutte diverse tra loro, senza penso nessun nesso, e come ogni calza della Befana che si rispetta. E il prossimo argomento, la prossima notiziola, non è veramente una notizia, ma è una piccola introduzione su un NFT. Non fungible token. Come si legge te che sei più bravo di me? Fungible, Boh, fungible, fungible. funghi. Funghi, vero? Funghi, Perché non sa tanto di funghi. Sì. Pungible. Pungible, Un pungi. non pungible. No fungible token. Ne avrete forse sentito parlare sui giornali o da qualche altra parte. Pare essere uno degli argomenti del momento e noi che siamo sempre sul pezzo non ci sentiamo da meno e dobbiamo parlarne perché appunto parliamo del telescopio Certo. del momento, del non so, cioè è chiaro che anche di questo dobbiamo dire la nostra. Allora, la notizia non c'è. Però fondamentalmente, recentemente, nel maggio del 2021, gli Uffizi hanno venduto una NFT del Tondodoni e sono stati i primi a farlo, cioè i primi, in Italia perlomeno, il primo grande museo a fare una cosa del genere. Cos'è una NFT? Ora, magari non credo che ci interessi entrare troppo nel dettaglio. No. Anche perché, non tanto perché, ma perché davvero non è interessante. Cioè, proprio Esatto. non. Però fondamentalmente quello che possiamo dire è che è una. Come se fosse una sorta di copia. Sì. Un hash lo potremmo chiamare, però Esatto. di fondo è una copia. Chiamiamola così per semplificare un attimo e farvi capire meglio. Una copia in certificata. Che certifica che quella copia lì è proprio una copia dell'originale e che è la copia unica, cioè che quella copia lì è l'unica che esiste ed è vostra. Esatto, Esatto, identificata a quella, per esempio a quell'opera d'arte del Tondodoni. cioè qui si tratta fondamentalmente del Tondodone di una copia ad alta risoluzione che peserà, non voglio sapere quanto, e questa copia. Può essere appunto venduta per cifre clamorose a chi la voglia comprare, chi abbia soldi per comprarsela. Si parte da quello che viene chiamato uno smart contract, ovvero un contratto che in qualche modo certifica la proprietà intellettuale di quell'opera a un certo artista. Quindi nel caso del Tondodoni no, ma nel caso se si trattasse di un artista vivente, fondamentalmente c'è un contratto vero e proprio che c'è una certificazione della proprietà di questa proprietà del copyright fondamentalmente fatta attraverso la blockchain. Anche qui non ci interessa, secondo me, in questo momento di spiegarvi come funziona nel Gigino Di dettaglio. Maio. Che cos'è? Hai detto? Quando dici blockchain, io penso sempre al pomodoro di Di Maio, che Oddio, è vero. Perché? era tipo che aveva tirato fuori a blockchain anche per sapere tipo da dove viene la frutta, il cibo, Ah, qualsiasi cosa, no? ok. Allora certificava tutto con la blockchain. Vedi, Capito. vedi che vedeva avanti Gigino Di Maio. Tutti a prenderlo per il culo, invece lui vedeva Quante ne avanti. sapeva? Certifica i pomodori, Sì, sì. fondamentalmente è un modo come un altro di base, però molto più cool, molto più così che fa molto più fuffa per Molto poco certificare. green, tra l'altro. Ecco, infatti questo ne parleremo per niente green, ma questo che gli frega a Di Maio. Comunque è un modo come un altro per certificare una cosa. Fondamentalmente ci mettiamo tutti d'accordo che quella cosa lì è effettivamente tua. Bene, perfetto, siamo tutti d'accordo. Queste certificazioni sono pubbliche, tutti lo sanno, bellissimo. Nel caso del Tondodoni, chiaramente chi acquista la NFT acquista una copia, abbiamo detto, no? Quindi chiaramente non acquista la proprietà intellettuale, è solo la copia originale, quindi gli Uffizi sono tranquilli perché non stanno vendendo la proprietà intellettuale del Tondodoni. E nella sfruttabilità quindi del Tondodoni, perché quella se la vogliono tenere ovviamente cara, ma vendono la copia certificata di che è una copia originale di quell'opera. Ora, fondamentalmente questa cosa qui, che io penso che a ogni persona sana di mente la prima cosa che gli viene in mente è dire ma perché uno dovrebbe comprarsi una roba del genere? E in effetti non vi so rispondere a questa domanda, cioè nel senso anch'io me lo chiedo, però d'altronde i miliardari sono così, sono un po' naif, spendono soldi a caso. E anche qui andrebbe pure bene, nel senso che io non mi indigno particolarmente se si riesce a vendere la Fontana di Trevi a dei turisti pieni di soldi, certo. Cioè sinceramente mi dispiace solo di non riuscirci io, però ecco, se questa cosa mi riuscisse, penso. Ma perché che... non gliela puoi certificare, no? Se gliela potevi certificare era fatta. Serve una blockchain. Ma infatti fondamentalmente adesso si può effettivamente vendere la Fontana di Trevi senza grossi problemi. Ma questa cosa non mi scandalizza particolarmente. Però è tutto appunto molto fuffoso e... Però è interessante, secondo me, tutto questo scalpore che ne è venuto fuori, perché se da un lato appunto c'è stato tutto un interrogarsi appunto sul significato di vendere una cosa come un capolavoro d'arte come il Tondodoni, no? Cioè, quindi io essenzialmente però che cosa ti sto vendendo? E perché tu c'hai stanza di dover comprare il Tondodoni, nel senso, e soprattutto comprarne una copia, no? Quindi da un punto di vista filosofico è un po', come dire, per come la vedo io, è un po' proseguire un po' questa cosa dell'ossessione di quando si va ai musei, no? E si vede tutta sta gente che fotografa, che ne so, la primavera di Botticelli con lo smartphone e te pensi, ma scusa, ma cioè, se cerchi su Google, secondo me, una foto della primavera di Botticelli la trovi. Ed è probabilmente meglio di quella che stai facendo te col tuo smartphone. Quindi, perché c'è un po' questa ossessione, no? E forse in qualche maniera mi sono detta, non so se ho ragione, però che c'è un po' quest'ansia di riuscire a possedere le cose attraverso il proprio telefono, no? Cioè che quindi non mi basta di vederla la primavera di Botticelli, la devo in qualche modo, cioè riesco a possederla se ne faccio una foto attraverso il mio dispositivo, il mio telefono, me la tengo nel mio telefono, poi non la guarderò magari mai più, però in qualche modo ne ho preso possesso. E questo... Sì, oppure secondo me anche per dimostrare agli altri che l'hai vista dal vero. Esatto, sì, sì. E l'altra cosa è quella, è un qualcosa quasi di... legata alla vanità, no? E quindi poi di fondo è perché io mi sto comprando la copia originale del Tondodoni, perché posso dire agli altri che ce l'ho, ma cioè, sì, cioè è un'ostentazione della ricchezza, ma se no ovviamente la ricchezza a che serve? Esatto, esatto. E quindi sì, e il rovescio della medaglia poi di questa cosa è anche interessante secondo me, il fatto che se da un lato viene spacciata sta cosa, no? Come molte cose smart e appunto poco green, come vedremo, però viene passata un po' come, ah, vedete, finalmente anche i grandi capolavori sono alla portata di tutti, no? Cioè, quindi tutti possono comprarsi la primavera di Botticelli. Se da un lato ovviamente non è vero, perché chi cazzo ce l'ha i soldi, sta parlando di miliardi per comprarsi un coso digitale senza senso. Ma il rovescio della medaglia è che poi fondamentalmente quello che sta succedendo è che stiamo agitando molto il mercato dell'arte, è che invece per quanto riguarda non i capolavori del passato, no, ma i futuri capolavori o comunque le future opere d'arte, che siano, perché poi ora parlavamo di arte visiva, però la stessa cosa vale per qualsiasi cosa fondamentalmente può essere considerata arte, quindi la musica e tante altre cose, il rovescio della medaglia è che se io adesso decido che faccio un quadro e quel quadro non è visibile a tutti, non lo sto facendo perché l'umanità lo possa vedere in qualche maniera, ma posso decidere che io lo faccio unicamente solo per quel riccone miliardario che me lo comprerà. Quindi non so come dire, è sempre potuto succedere ovviamente, non è niente di nuovo, perché cioè le opere Anzi, direi, d'arte. forse prima era più così che altro. Sì, c'erano le opere d'arte co su commissione, i mecenati, tutto quanto, però nella testa dell'artista forse, non lo so, però forse era meno diretta la cosa, nel senso che adesso è proprio io ho un qualcosa che ti posso direttamente già dare, cioè ti cedo tutto, ti cedo, perché poi in realtà adesso si sta parlando anche del fatto di inserire nello smart contract anche la proprietà intellettuale. Quindi fondamentalmente quello che potrei fare è faccio un'opera d'arte e te la vendo attraverso l'NFT e sarà tua, cioè tu potrai avere il privilegio di vedere una cosa che nessun altro al mondo potrà vedere. E questa cosa è proprio l'estremizzazione dell'arte privata, dell'arte come merce, qualcosa che secondo me appunto non è che non c'era anche prima, però adesso, cioè, voglio dire, così la dobbiamo leggere, secondo me, e non come un qualcosa di nuovo, di diverso, che offre possibilità agli artisti, perché non mi sembra che ne offra particolarmente. No, ma poi che sia, scusami, Sì. è che in differita arrivo sempre tipo un pochino tardi, non capisco quando sta. Cioè che sia comunque già successo o no, alla fine è una cosa brutta, a prescindere, Sì, cioè nel infatti. senso, anche se fosse stato prima la cosa più normale del mondo, comunque sia, non è un obiettivo da porsi, ecco, non è una bella cosa, secondo me. No, e quantomeno non ce la vendete come l'innovazione che salverà l'arte, cosa che invece se andate a spulciarvi un po' i vari commenti, come anche i vari artisti o gallerie d'arte o case d'asta che se le, insomma, che parlano di queste cose, ragionano di queste cose, te la vendono così, come appunto una grande svolta che salverà l'arte. Fondamentalmente si dice. Il commercio salverà l'arte, la merce salverà Salva l'arte, cioè il modo di salvare l'arte, che poi non si capisce bene. loro. Sì, infatti, ma poi non si capisce bene neanche da cosa dovrebbe essere salvata in particolare, però Esatto. vabbè. È appunto farci soldi sopra. Sai, a peggiorare un pochino la situazione è che poi con l'NFT, no, te ce l'hai e ce l'hai dentro al tuo wallet digitale. Se tu lo utilizzi su qualche piattaforma, se ha un utilizzo, per esempio, c'è un ora è un po' fuori dal tema arte, però si può applicare anche lì, o sulla musica, quindi quella traccia, e c'è una sorta di share di quella traccia messa propriamente sul lato economico, o per esempio c'è un videogioco che viaggia totalmente sugli NFT. Se hai l'NFT e viene fatto, lo puoi dare in prestito e viene poi scambiato, e tu guadagni una commissione sempre su quell'immagine. Quell'NFT effettivamente è un hash di immagine, e più gira e tu prendi una commissione, anche l'artista. Quindi anche lì poi c'è la parte proprio commerciale pura. Sì, un po' questa illusione del voler replicare il mondo reale, chiamiamolo così, dentro il virtuale, quindi il metaverso che ora va molto di Un moda. nuovo Nasdaq praticamente. Si può alla fine della fiera, sì. Sì, ma appunto niente di nuovo, però c'è un modo di, come dire, di far finta che possiamo replicare, fare una copia precisa del mondo reale. Nel mondo virtuale, che tutto può viaggiare in parallelo, ma cosa che chiaramente non è, perché se noi guardiamo un'opera d'arte in carne ed ossa con i nostri occhi e non attraverso la mediazione di un supporto tecnologico, è evidente che la percezione che avremo di quell'opera d'arte sarà completamente diversa. E il fatto che la vedo d'estate o d'inverno con uno stato d'animo piuttosto che un altro mi cambierà, la fruizione di quell'opera. E quella fruizione sarà mediata dai miei occhi, o dalla mia carne, non da un dispositivo tecnologico. Quindi è chiaro che le due cose non possono viaggiare come se fossero l'uno lo specchio dell'altro, insomma, perché non lo Sì, sono. però io penso veramente che per quanto riguarda il compratore sia veramente una totale ostentazione della ricchezza, cioè non è che poi lui in realtà la guarda, cioè serve Assolutamente. proprio pu puramente a dire: guarda, io ho 300 miliardi, mi sono comprato sta roba incredibile, ciao, cioè basta, finisce lì. Anche perché Poco tempo fa è stato messo all'asta il, cos'era, il primo SMS della storia. Sì. Stava Sì, venduto a sì, qualche milione, non mi ricordo quant'era. sì. Sì, chiaramente Però una sta andando cifra anche folle. avanti. È chiaro che su questa china tu puoi praticamente dichiarare capolavoro qualsiasi cosa e qualsiasi cosa può avvenire, può essere venduta a miliardi a caso. E anche qui, ce lo ricordiamo, le aste miliardarie per oggetti senza senso, perché forse si diceva che erano appartenuti a non si sa bene chi, o le reliquie dei santi, voglio dire, cioè è storia vecchia. Però, appunto, proprio perché è storia vecchia, chiamiamola storia vecchia e non chissà che scoperta, insomma. 107.000 euro l'SMS della Vodafone. Cioè, boh, cioè, chissà quanti euro 15 sms, questo non caratteri è poi, male. roba. Chissà che contratto telefonico doveva avere. Merda. Sì, per esempio c'è Comunque. Ozzy Osbourne che ha annunciato la sua prima collezione di 9.666, e mi sembra un numero che si è inventato di sana pianta, NFT Bats, cioè i pipistrelli. È una collezione chiamata Crypto Bats, perché chiaramente, Ciao. cioè, capisci, cioè, riferimenti appunto al famoso momento in cui si dice che Ozzy Osbourne durante un live staccò la testa di un pipistrello a morsi, che poi in realtà fuori dai denti aveva detto che non era vero, che era finto il pipistrello, però vabbè, e quindi niente. Comunque l'unica, secondo me, veramente lato positivo di tutto ciò che è come c'erano prima i falsari, adesso ci saranno i nuovi falsari. E secondo me è bellissima sta cosa. Sì, ma un'altra cosa che dicevano, che leggevo, era che un'altra delle cose che potrebbero succedere e che forse sono già iniziate a succedere è che te potresti a un certo punto falsificare la dichiarazione di capolavoro, cioè, cioè se tutto diventa capolavoro è ovvio che ovviamente, cioè che anch'io allora posso fare un quadro e fare in qualche modo risultare che quel quadro è una figata ed è un capolavoro riconosciuto da tutti e me lo rivendo e poi me lo compro da solo e in quella maniera sto riciclando fondamentalmente soldi, cioè nel senso che riesco a riciclare una quantità di soldi senza senso per una roba che Geni. continua a non aver senso. Sì, esatto. E questa cosa qua è una dei tanti, delle tante cose che potrebbero succedere. Cazzo, no, non ci avevo minimamente pensato, ma è un modo pazzesco per pulire denaro. Capito? Guarda che anche c'ha un certo stile. Alla fine te fai scarichi l'immagine stock gratuita anche da Wikimedia, bam, fai l'NFT, la metti a 11 miliardi di milioni e te la ricompri col tuo wallet per non pagare le tasse. Perché Sì. quella è un'opera d'arte per l'Italia, è un'opera d'arte all'estero, non è in Italia. Quindi se la vendi c'hai quella tassazione lì che boh, non so quant'è. Ci Esatto, sono tutti questi argiri qua. sì, non lo so, il ristorante cinese potrebbe rivendere il fazzoletto usato da non so chi, come grande Einstein opera d'arte, probabilmente. sì, mi sembra un mondo bellissimo. Tra l'altro, l'unico aggancio un po' con la realtà, cioè insomma, diciamo con l'attualità, che è uno dei motivi per cui vi abbiamo parlato di questo argomento, è che Brianino ha dichiarato di recente, ha fatto una lunga intervista, non mi sto più ricordando con quale rivista, me l'ero segnata. Ve la dico, se no poi ve la metto nel podcast. No, infatti era più giù. Va bene, insomma, ha fatto una lunga intervista dove fondamentalmente, eccolo, thecryptosyllabus.com, Sì. dove fondamentalmente si scaglia contro tutta sta roba. Ed è bravissimo, ci piace tantissimo in questo Brianino perché l'ha demolita, ha detto: ah, finalmente anche gli artisti e i musicisti possono giocare a fare gli stronzi capitalisti, e ha liquidato così la faccenda, secondo me in maniera estremamente efficace. Anche perché sennò in realtà nel mondo della musica anche c'è una grande gara a vendere gli NFT, cioè non vi sto a dire nel mondo dell'hip hop e rap gangsta cosa non si stanno vendendo, gioielli di famiglia e tutto quanto, e E giustamente Brian Eno ha Denti. risposto: ma sti cazzi. Sì, dà anche denti, certo, mi Sì, sembra evidente. si prende tutto quanto, tanto. Copie dei denti, ovviamente. Esatto, sono quelle. Beh, calcola, hanno fatto anche, questo è allucinante, un cartone interamente basato, cioè non basato sull'NFT, gravita sul mondo delle cripto, no? Fa tutto quella gag lì, ma ogni personaggio all'interno del cartone è stato venduto come NFT, ma si parla di milioni e milioni di dollari. Pre-cartone, quindi hanno fatto tutta una campagna, hanno fatto il cartone per vendere quei personaggi là, Grande, effettivamente. grande. Vedi? È un mondo veramente bellissimo. Va bene, e io direi siamo già a un'oretta e mezzo di Wow. trasmissione, quindi forse è il tempo di un altro brano musicale per prenderci un po' di pausa e poi torniamo con le ultime notiziole. Sì, ma sì. Eccolo qua. Everybody loves in the sunshine. Lasciamo un po' in sottofondo, sfumiamo, perché è un pezzo molto lungo, dura 9 minuti no. circa. Sì, sì, sì. Takuya Kuroda. Probabile. Sono d'accordo, sì. Everybody loves the sunshine, molto bello, na, na, però na, mi piaceva. Na, na, na. Bello, bello. Bene, quindi direi che siamo arrivati quasi in chiusura, quindi vi lasciamo con un po' di notiziole veloci, veloci, veloci, gustose. Allora, in fondo la calza di questa Befana abbiamo delle notiziole abbastanza interessanti. La prima è Alexa, la famosa assistente vocale, suggerisce a una ragazzina di 10 anni di mettere un penny, è successo in America un penny, tra il caricatore del telefono e la presa, perché era una challenge, ha chiesto quello e probabilmente sarebbe stata l'ultima. Hanno commentato, Amazon ha commentato e ha detto che sta conquistando il mondo e quindi non gliene frega nulla fondamentalmente. Aspetta, chi è che sta conquistando il mondo? La bambina o Alexa? La bambina, no, è quello il problema. Infatti è stato il 2020, lo fa sto effetto. A volte sì. Poi passiamo a un'altra bella notiziola. Una scimmia che gioca a Pong. È il classico gioco, uno dei primi videogiochi, la classica pallina che va a destra e sinistra, con il Neuralink. Fondamentalmente è stata addestrata prima con un classico controller, e praticamente il setting è questo. Lei è questa scimmiettina qui, è in questo laboratorio con delle piante, tutto un po' naturale, diciamo. Ha uno schermo davanti a lei, un tubo che gli dà del dolce, diciamo la reward per giocare a Pong, e un controller che utilizza. E questa scimmietta è in piedi, no? A un certo punto prendono la scimmietta, gli fanno un'operazione, gli mettono il Neuralink nel cervello. Cos'è un Neuralink? Aspetta. È questa interfaccia cervello-macchina. Ah, per sapere cosa sta facendo, per leggere cosa sta facendo a livello neuronale. Esatto, okay. E leggendo quell'attività, mappando mentre sta giocando con il controller, con il Neuralink, poi riescono a mappare esattamente quei movimenti, a capire quando vuole mandare su e quando mandare giù, tolgono il controller e quindi il Neuralink manda quelle letture lì al PC e il PC le rimanda al videogioco, quindi togliendo di fatto il controller dall'equazione. Permettendo alla scimmia di giocare con il cosiddetto pensiero. Oddio, è terribile. È un po' terrificante. È una cosa orribile. C'è il video su YouTube, è stato enunciato in questo modo. E fondamentalmente, spero sia uno scherzo in realtà, ma penso proprio di no. E fondamentalmente si vede proprio questa scimmia che gioca, e nel frattempo c'è uno zoom out e c'è il tecnico che sta... per l'appunto con il PC e vede tutta l'attività di questa scimmiettina qui. Che bello. E con questo vi abbiamo rovinato completamente le vacanze, sì. Dopo gli NFT immagino il livello di pessimismo potrebbe essere rotolando verso sud. Questo era per dimostrare a Ginox che anche noi siamo capaci di grosso pessimismo. E passando sempre su altre belle notizie gioiose, esce fuori un post su Reddit di questo redditor che si lamenta di un fatto un po' increscioso con il suo telefono Android. Era da sua nonna si sente male, vuole chiamare il 911, è successo in America, e non riesce perché l'applicazione di Teams prende il sopravvento e ogni volta non riesce a chiamare. Riavvia il telefono, non funziona ancora e alla fine utilizza il telefono fisso. Oh, i cari vecchi metodi. Come funzionano? Ci sarà sempre un'app che salverà il mondo, no? Proprio sì. Questo penso sia... Sì. Sarà sempre un'app che ti distruggerà il mondo. Ok, era così. Madonna, sai che incubo? Che te sei lì con l'ansia, no. E c'è Teams e ti fa le notifiche, oddio. Ti immagini, no? Veramente è orribile. Comunque penso che qualcosa di molto simile sia successo a tutti noi, non lo so, Cioè, magari non proprio questo nel dettaglio, però quando sei in un momento che devi fare una cosa importantissima e ti chiamano, e beh, mi succede, io che ho il telefono stupido, tutte le volte che mi serve la torcia e sto a cercare di mettere la torcia, mi entra una chiamata, mi succede di tutto, mi chiama la mamma, lo so. È il marketing questo, no? Bene, poi cosa abbiamo ancora nella Befana nella calza? Allora, abbiamo le ultime due, proprio in fondo, le due chicche. Allora, l'antivirus Norton, il tra virgolette famoso antivirus, ha deciso di lanciare una nuova feature che è, per esempio, per rimanere nella parte delle cripto, NFT, il mining di Ethereum. E praticamente ti dice, tu attiva questa opzione qui, farai dei soldi, farai dell'Ethereum che vale dei soldi, noi ci prendiamo il 12%. Ora, la cosa è che comunque te paghi la corrente, perché per l'appunto, essendo sempre del mining, il proof of work, per risolvere gli hash, per prendere quell'Ethereum, devi lavorare, è il computer che lavora, quindi consumi più corrente. Ethereum, spieghiamo forse, perché sennò sono una collezione di troppi termini difficili, che è un po' il concorrente di Bitcoin, per dircela in maniera brutale. Tra l'altro è quello che viene usato fondamentalmente per NFT, di cui parlavamo prima. E, diciamo, è il cattivo della situazione, possiamo dirlo, sì, cioè è il contrapposto del Bitcoin, è quello su cui si fanno gli smart contract, gli NFT, funziona per l'appunto con il risolvere l'hash. E quindi è un po' la tendenza di tutto quanto il mondo business, si può dire, sull'approcciare la blockchain, gli NFT e il mining in questa maniera qui, anche a discapito magari dell'utente che non sa minimamente che vuol dire il mining. Arriva il tuo antivirus e dice fai dei soldi facili, e poi ti ritrovi o il computer fuso o una bolletta stratosferica. Sì, perché in effetti una cosa che non abbiamo detto prima, che mi ero ripromessa di dirla riguardo all'NFT e poi invece non ho detto, che era tra l'altro anche una delle critiche sollevate da Brian Eno, è il fatto che l'NFT o tutte queste cose, criptovalute, tutte queste robe qua, si fondano su un uso massiccio di corrente e di... in maniera continua, è proprio l'elemento fondante, il produrre continuamente, cioè consumare continuamente energia elettrica. Sì. E quindi in realtà appunto è molto buffo come da un lato ci si preoccupi del riscaldamento globale, tutte le tematiche green, e poi con l'altra mano in realtà si spaccino come queste cose, come cose che salveranno il mondo, esatto. In realtà stanno contribuendo brutalmente a devastarlo. Cosa che diceva Brian Eno, diceva sì, bello, cioè quindi praticamente capiamoci, una copia di una mia opera d'arte praticamente costa al pianeta uno sfacelo infinito. Bellissimo. Sì, sempre cose più carine. E passando poi all'ultimissima chicca in questa calza, abbiamo, questo potrebbe essere interessante, spero e già so che ci sarà del fervore nel pad, che è gli hack dell'autovelox, cioè gli autovelox, il laser per la velocità, questi bellissimi strumenti, c'è un modo per bypassarli? per comunque ovviare come funzionano. E effettivamente sì, ci sono delle modalità, praticamente per la parte di laser funziona più o meno come l'effetto Doppler, ma forse direi una cavolata. Ti arriva il primo laser e c'è un ritorno indietro e quello è il tempo, la differenza di tempo ti dà la velocità. Ora, ci sono delle modalità rispondendo con quel laser in un certo periodo, in un certo momento, con una certa frequenza, riesci a definire tu la velocità a cui stai andando, e quindi a trasmetterla alla macchinetta. C'è la stessa filosofia, più o meno, per la parte delle fotocellule. Fondamentalmente, mettendo un flash, una fotocellula che reagisce al flash di una camera a infrarossi, rimandando indietro a sua volta un flash illuminando la targa nel momento preciso, si può coprire. E ci sono dei prodotti, ci sono delle cose nell'internetto. E niente, questo direi è un po' il tutto. Nel frattempo Simboy stava provando a collegarsi con noi, ma non lo sentiamo più. Probabilmente abbiamo parlato troppo male della tecnologia e quindi ci si sta rivoltando contro. E quindi purtroppo non possiamo sentire cosa ha da dirci, anche se si sta sbracciando, ma purtroppo non ti sentiamo. E bene, quindi direi che forse abbiamo terminato le Ah nostre sì, notiziole questa da Calza Befana. della Befana. Sì, una puntata difficile, un po' confusa forse, ma d'altra parte eravamo in grossa difficoltà perché veramente il mondo ci rema contro. E quindi direi che vi diamo appuntamento tra 2 settimane, quindi giovedì 20 Sì. gennaio. Sempre intorno alle 21, magari ritardiamo un po', quindi Ma semmai sono esco. tornato! Eccolo! Oh! Oh, ce l'hai fatta! Ciao! Ma Che sì, ma cioè, una cosa assurda, c'ho il gatto che mi si è svegliato sul termosifone vabbè. lo giuro, e ha staccato l'alimentazione del mixer e si è sconfigurato il computer e quindi mi ha tolto il microfono. Pazzesco. Che belli Quindi è gatti. stato un sabotaggio di un gatto. Esatto, come sempre, cioè, praticamente sempre. No, ma io volevo chiedere a Red, ma il tipo che chiamava il 911 e poi insomma, ma la vecchia è morta? Sì, in effetti anch'io un po' me lo chiedevo. No, sta bene, sta bene. E anche contento. Vabbè, quindi non è successo niente alla No, no, alla fine fine. non è successo niente, no. Vabbè, ma perché c'aveva il Cioè, telefono fisso? Se non c'aveva il telefono esatto, fisso era morta esatto, questa. esatto. Sì, beh, però è divertente che ha provato, ha spento, riacceso, ha fatto, cioè, ha aspettato, cioè, lui stava volontariamente vedendo se moriva, però, cioè, era proprio tentato omicidio, diciamo, come stanno le Bell'alibi quello lì, mi cose. piace, Ah, non ci che avevo dici, eh? E pensato. poi se ne è lamentato su Reddit per trovarsi un alibi. Ecco, questo chiude. Ah, No. interessante. Però, se magari, non so, la prossima volta parleremo, perché poi mi sono staccato, riconnesso, mi sono perso, ma stavate dicendo qualcosa degli autovelox, Sì. ma se magari lo facciamo anche la prossima volta, non so se hai già detto qualcosa, mi sono perso. Ma ho fatto un'introduzione così anche perché la parte tecnica è proprio sulla parte di fotocellule, le onde, lì mi perdo, quindi ho dato quel nocciolino lì, quella nozione là. Ah, ok, figo, figo. No, perché mi stavo chiedendo anche Ganzo se un giorno ci saranno nello spazio, immagino, l'autovelox spaziale. Anche perché tu prima dicevi che abbiamo fatto una sonda super mega veloce. Se c'è poi l'autovelox. Non ci avevo pensato. E quant'è la multa secondo te se vai a 165 km al secondo? Quindi, quanto... Ma, no, secondo me lì, hai visto, c'è tipo sempre le varie leggende, tipo se vai più veloce di un tot l'autovelox non ce la fa a prenderti, no? Secondo me faranno tipo, non so, se vai più veloce della luce l'autovelox non ce la fa, non ti Giusto. prende. Giusto. Oppure vuoi mettere il CD rigirato sul vetro di dietro della macchina, sull'1.8. Dai, c'era questa leggenda anni 90, che così riuscivi a fregare. Però ne nella prossima puntata vi sveleremo che una di queste cose ovviamente non è il CD, però c'è un apparecchio simile che essenzialmente vuole fare la funzione che diceva avrebbe dovuto fare il CD, E secondo me quello potrebbe essere molto bello e potrebbe anche essere autocostruibile. Non mi sembra particolarmente complicato. Direi perfetto, così chiudiamo, cioè, visto che oggi vi abbiamo già suggerito dei modi con cui ammazzare la vecchia facendo finta che sia colpa di una app che ti impalla il telefono. Poi abbiamo suggerito come fare delle truffe attraverso NFT. Ora, poi, nella prossima puntata vi spiegheremo come truffare gli autovelox spaziali. Direi che Sì, abbiamo non fatto, no? so, penso di mi sì. sento soddisfatto. Sì, infatti, il nostro l'abbiamo fatto, direi. Bene, allora ci diamo appuntamento, si diceva appunto Il tra 20, il 20, tra 20. 2 giovedì, e sempre su Radio Wombat, ovviamente, Loveless, quindi. A presto, ciao ciao! Ciao. Ciao, buonasera.